quando secondo il mito Eos, la dea dell'Aurora, si innamorò del bellissimo Titone, figlio di Laomedonte, e decise di sposarlo a ogni costo, ottenne da Zeus per l'amato il dono dell'immortalità. Ma non pensò, forse perché le pareva ovvio, di chiedere anche quello dell'eterna giovinezza. E così perché gli dèi a volte sono crudeli anche fra di loro, fu condannata a restare unita per l'eternità a lei, sempre bella e desiderabile, perché l'aurora rinasce ogni mattina, ma nulla mai perde della propria freschezza, con uno sposo destinato a invecchiare giorno dopo giorno fino alla decrepitezza, con quali conseguenze per il divino menage è facile immaginare anche a chi non sia pettegolo come Ovidio. Non basta, come dicevano gli antichi, condividere il letto di una dea per sfuggire agli insulti e ai danni della vecchiaia. Gli unici, a parte gli dèi, cui sia concesso questo raro privilegio sono gli eroi della narrativa popolare. James Bond, l'agente 007, è sulla trentina quando debutta sulle pagine di Casino Royale nel 1954. Non sembra particolarmente gravato dal peso dei 40 nel 1965, quando Ian Fleming si decide a precisare in You Live Only Twice che aveva 17 anni nel 41, ed è riuscito, almeno sullo schermo, a conservare quell'invidiabile condizione biologica fino ai giorni nostri. Hercule Poirot è già in pensione dalla polizia belga nel suo romanzo d'esordo, The Mysterious Affair at Stives, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e pubblicato nel 1920, ma non sembra cambiato di un filo nell'ultimo romanzo che la Christie gli dedica, Elephants Can Remember, che è uscito nel 1972 e si svolge chiaramente in quegli anni. Manuel Vázquez Montalbán un anno fa si è portato via con sé il suo Pepe Carvalho, lasciandogli in volto le stesse identiche stimmate della mezza età che dimostrava nel 1976 in tatuaje. Gli autori di questo genere di narrativa si rendono perfettamente conto del fatto che i tempi cambiano, ma non possono, per una quantità di ottime ragioni su cui ci intratteremo potendo in un'altra occasione, adeguare al cambiamento le caratteristiche dei loro personaggi. Gli altri mortali, ahimè, non possono far altro che chinare il capo di fronte al tempo che passa e cercare, se ci riescono, di far finta di niente. Aiuti in tal senso, va detto, non mancano. Viviamo in tempi che sull'essere privilegiano l'apparire, e grazie ai prodigi della tecnica moderna, la giovinezza, pur fugace che sia, si può sempre simulare. Queste considerazioni non mi sono venute in mente davanti allo specchio, ma non ve ne stupiate di fronte ai primi manifesti dell'incipiente campagna elettorale. Come sempre, i primi candidati a tappezzare i muri con la propria immagine vengono per motivi che non ho mai capito bene dalle file dei postfascisti di AN, di quei postfascisti di solito a cui il post sta abbastanza stretto. E tra questi, come sempre, se ne distinguono due. Un truce postfascista dalla mascella decisa, uno che prima dell'attuale collocazione in politica ne ha passate di ogni, dalle origini nella Lega fino a una fuggevole permanenza a sinistra o quasi, come sostenitore, non ricordo se dall'esterno o dall'interno di una giunta riformatrice, e una postfascista vezzosa, che ancorché possa contare, mi dicono, su relazioni familiari eminenti, fa conto soprattutto sull'effetto immagine. E tanto è vero che ha cura di mettere in evidenza un viso da diva anni 60, occhioni sgranati, un sorriso imbronciato incorniciato da lunghi capelli castani, tutti ricci. Guardatevi intorno e vedrete che tutti gli spazi disponibili sui muri, o quasi, per ora se vi sono aggiudicati quei due. I quali, oltre alla fede politica, hanno in comune una cosa: presentano tutti e due agli elettori un'immagine di sé, diciamo, un po' di stagione. Quelle loro fotografie a colori, io ne sono sicuro, le ho già viste. Sono comparse sui manifesti delle ultime 4, 5, 6 campagne. Risalgono come minimo a 10-15 anni fa. Non è possibile. Non è possibile, con tutta la buona volontà, che le fattezze che raffigurano siano quelle attuali dei loro soggetti. Io quei due non li ho mai frequentati de viso, naturalmente, ma suppongo che qualche ruga in più, qualche capello grigio, delle labbra un po' meno tumide per lei, un minimo di faience della mascella per lui, vadano inevitabilmente messe in conto. E se è normale, umano, voler sfuggire di fronte a se stessi nei rapporti personali a quella che potremmo chiamare la sindrome di Titone, e non è di tutti l'aristocratico egoismo della contessa di Castiglione, quella che avanzando gli anni si rinchiuse nel proprio appartamento, non volle più incontrare nessuno e giunse ad eliminare dalle pareti tutti gli specchi, se è possibile questo, è anche vero che la campagna elettorale è un ambito in cui ci si aspetta dai candidati, se non altro, uno sforzo o una presunzione di sincerità. E quale sincerità si possa presumere in chi comincia con il falsificare in un certo senso la propria immagine? Beh, non è facile dirlo. È già abbastanza peculiare l'idea di chiedere voti esibendo sui muri la propria faccia, come se fosse un argomento di qualche interesse per qualcuno. Farlo esibendo una faccia che propria non è più, una propria ex faccia, diciamo, non può che aumentare le perplessità. Mi direte che c'è chi fa di peggio. C'è chi non si limita a esibire un'immagine che non è più la sua, ma falsifica addirittura la propria persona, facendosi stirare il viso e trapiantare i capelli uno a uno da chirurghi specializzati. È vero, ma non fa ben vedere gran differenza. Quelle sono soltanto delle forme più raffinate e più costose dello stesso culto dell'immagine, della stessa fiducia nell'apparenza. Sappiamo tutti che per vendere qualsiasi prodotto la confezione è importante, se non decisiva, ma questo non toglie che chi compra badando soprattutto alla confezione lo fa a proprio rischio e pericolo. Per i falsificatori di persone, la legge della Firenze medievale, come forse ricorderete dal Gianni Schicchi di Puccini, prevedeva il taglio della mano e l'esilio. Si trattava nel caso di una falsificazione di tutt'altro tipo, e quella di tagliar mani comunque è una pratica orribile con la quale nessuno di noi vorrebbe avere nulla a che fare. Sull'esilio, in certi casi si potrebbe discutere.